E cominciamo il valzer dei collegamenti da Piazza Indipendenza. Andiamo a cominciare dando il buongiorno al nostro corrispondente. Ciao. Ciao a tutti e tutte, buongiorno. Allora, immagino che stiamo ancora ai preparativi della manifestazione, sono appena le 4:10, quindi è il momento del concentramento. Scusa, ti ho interrotto? No, vai. La piazza si è iniziata a riempire e insomma penso ci sarà una buona partecipazione, insomma siamo appena in orario e già metà di Piazza delle Squilire è quasi completamente piena. Come era stato preannunciato, la polizia ha iniziato a fare questi filtraggi in vie laterali, però io, chiedendo a compagni e compagne che stanno arrivando negli ultimi minuti, non li stanno proseguendo questi controlli, insomma l'hanno fatti un po' sulle prime persone che arrivavano e poi mi sembra che ora li hanno più o meno sospesi, ogni tanto fermano qualcuno se vedono che ha uno zaino, però insomma la situazione da questo punto di vista è abbastanza blanda, quindi probabilmente quello che era un po' più l'intento era un livello di terrorismo mediatico che insomma leggendo i giornali di questa mattina è stato ampiamente messo in campo. Niente, per il resto la piazza si continua a riempire, sono presenti anche bandiere in piazza, i sindacati di base, quindi anche il rischio che non facevano entrare le aste delle bandiere come dicevano all'inizio comunque non c'è stato e niente, insomma speriamo che la piazza si riempia il più possibile nei prossimi minuti. E io per esempio ho letto anche degli appelli che chiamavano la piazza per le 4:30, quindi probabilmente comunque prima delle 17, poi tra l'altro appunto come succede spesso nella nostra città la manifestazione non partirà, quindi poi magari più tardi vi daremo altri aggiornamenti. Sì, infatti siamo a Roma il 26 agosto, cioè già non si parte puntuali a novembre, non vedo perché esatto. Bisognerebbe partire puntuali ad agosto. No, quindi ci confermi che questa storia dei filtraggi è stata soltanto all'inizio del corteo, cioè del concentramento. Perché leggevamo invece su vari strumenti social, ad esempio di chi denunciava il controllo anche degli striscioni, delle bandiere. Quelli dei compagni che sono arrivati, è stato controllato, sì appunto parlavo con una compagna e sono stati controllati i cartelli di un po' di persone che vivono nelle occupazioni, che stanno venendo alla manifestazione, che sono abituati a portarsi in piazza cartelli. Cose e c'è stato proprio un controllo in qualche forma lessicale delle forze dell'ordine dicendo che non ci devono essere concetti offensivi. Alla spiegazione dei concetti offensivi è stato detto ad esempio niente frasi antisemite, a quel punto è stato vabbè state tranquilli, vabbè è un po' il modello stadio, no? Ti devo controllare anche sì, la sì. Sciarpa di turno, vabbè dall'idrante agli slogan proprio meno applicano, provano sì. A usare metodi simili. Vabbè, tutto abbastanza patetico, comunque mi sembra che da quello che ci stai raccontando appunto, che nonostante il tentativo di allarmismo dietro questa manifestazione, oggi leggevamo degli articoli, soprattutto di giornali di destra, che facevano anche sorridere perché si parlava di della vendetta dei movimenti contro la polizia, cose del cioè, toni del genere, quando mi sembra che invece l'aria che tira è quella di determinare di nuovo una piazza che sia una piazza che reclami casa e non soltanto, perché si è andato anche oltre, perché ma raccontiamo un po' questa manifestazione, che era una manifestazione lanciata settimane fa sul problema appunto sull'emergenza abitativa, che però ora ha un respiro diverso dopo anche gli ultimi eventi, o sbaglio? Sì, il corteo è stato lanciato subito dopo lo sgombero dell'occupazione di via Quinta Valle a Cinecittà, sgombero avvenuto precisamente se non sbaglio il 9 agosto. Sì, 9-10 agosto, sì. Sempre con una modalità abbastanza simile a quello di Piazza Indipendenza, sgombero che in realtà diversamente ha trovato una resistenza inizialmente più forte di quella che si è riuscita a mettere in campo a Piazza Indipendenza, che ricordiamoci nelle prime ore comunque dello sgombero era stato liberato lo stabile. Poi è uno stabile che è stato rioccupato in qualche modo su permesso delle istituzioni da parte di un quinto o meno delle persone dei rifugiati che ci vivono, mentre l'occupazione di via Quinta Valle ha visto uno sgombero insomma che è durato 5-6 ore con anche lì utilizzo di manganelli sulle persone. Là poi è avvenuto un fatto molto grave, sono state arrestate 10 persone sì. Di quelle che hanno partecipato alla resistenza per difendersi la propria casa, con accuse che nelle prime ore si parlava anche di tentato omicidio per il lancio di alcuni oggetti sulle forze dell'ordine che veniva dichiarato dalla questura. Quindi insomma un corteo che inizialmente provava a dare una risposta su un attacco molto forte che era stato portato a queste famiglie, al movimento di lotta per la casa, in un agosto che insomma a quel punto sempre di più si temeva potesse non essere neanche l'unico dei episodi di sgombero. Di fatti è avvenuto quest'altro sgombero, dove poi appunto la storia la conosciamo, sicuramente la radio l'ha raccontata tanto in questi giorni, poi la resistenza, il coraggio delle famiglie che occupavano, da un altro lato la scelleratezza delle istituzioni e delle forze dell'ordine, sicuramente ci stanno dando oggi, ci potrebbero dare oggi comunque una manifestazione in cui più persone, oltre quelle che normalmente magari verrebbero a sostenere il movimento per il diritto all'abitare che inizialmente aveva indetto il corteo, scendono in piazza, e questo sicuramente è una cosa che dobbiamo riuscire a cogliere come una cosa positiva, e speriamo infatti che la manifestazione di oggi possa essere anche un momento di inizio verso settimane in cui comunque non ci aspettiamo niente di diverso dalla giunta che governa questa città e dal partito che ha il governo, quindi insomma c'è da organizzarsi. Quindi mi sta a dire che in attesa dell'autunno caldo andiamo a fare sto corteo a 35 gradi più o meno, no? Esatto, è questo, stiamo aspettando un altro autunno caldo, ma quest'estate mica sto aspettando. No, assolutamente, mi sembra anche la giornata di oggi ci ha riportato un po' alle temperature delle settimane passate, è questo, però non mi sembra che stia scoraggiando nessuno o nessuna, e questo è il dato politico che possiamo intanto raccogliere. Vabbè, io ti ringrazio per questo primo collegamento, poi avremo tempo quando si comincerà a muoversi il corteo di andarci a sentire nuovamente. Ciao, a più tardi. Ciao a tutti e tutte. Ciao ciao.